Capitolo 48. Borea. Orizia, figlia di Ereteo, re di Atene, e la di lui moglie Prassitea, danzavano un giorno presso il fiume Ilisso, allorché Borea, figlio di Astreo e di Eos e fratello dei venti del sud e dell'ovest, se le portò via su un picco roccioso presso il fiume Ergine, dove, avvolto in un nero mantello di nubi, usò loro violenza. Borea amava Orizia da molto tempo e più volte aveva chiesto la sua mano, ma Ereteo l'aveva tenuto a bada con vane promesse. Infine Borea, spazientito, si era abbandonato alla sua naturale violenza. Altri, tuttavia, dicono che Orizia reggeva un cesto di primizie durante l'annuale processione delle tesmoforie, che si svolge lungo le pendici dell'Acropoli, su fino al tempio di Atena Poliade, allorché Borea la volse nelle sue fulve ali e se la portò via senza essere visto dalla folla raccolta lì attorno. La condusse nella città dei Ciconi in Tracia, dove Orizia divenne sua moglie e gli generò due gemelli, Calaide e Zete. A essi, quando raggiunsero la maturità, spuntarono le ali. Orizia ebbe da Borea anche due figlie, Chione, che generò Eumolpo a Posidone, e Cleopatra, che sposò Re Fineo, vittima delle arpie. Borea ha il corpo che termina in serpente in luogo di piedi e abita sul monte Emo in una grotta dai sette meandri, dove Ares tiene le stalle dei suoi cavalli, ma ha anche una dimora presso il fiume Strimone. Un giorno, assunto l'aspetto di uno stallone dal nero mantello, coprì 12 delle 3.000 giumente di Eritonio, figlio di Dardano, che solevano pascolare negli acquitrini presso il fiume Scamandro. Nacquero da questa unione 12 puledre che possono cavalcare senza piegarle su spighe di grano maturo o sulla cresta delle onde. Gli ateniesi considerano Borea loro cognato e, avendone ottenuto l'aiuto per distruggere la flotta del re Serse, gli hanno eretto un bellissimo tempio sulle rive dell'Ilisso. Borea, dal corpo terminante in serpente, il vento del nord, era un'altra personificazione del demiurgo Fione, che danzò con Eurinome o Dorizia, dea della creazione, e la fecondò. Ma come Ofione si unì ad Eurinome e Borea a Orizia, così anche Ereteo dovette unirsi alla forma primitiva di Atena. E Atena Poliade, della città in onore della quale Orizia intrecciò le sue danze, doveva essere Atena Polias, Atena la Puledra, dea del culto locale del cavallo e amata da Borea Ereteo, il quale divenne così cognato degli ateniesi. Pare che il culto di Borea fosse di origine libica. Dobbiamo qui ricordare che Ermete, innamoratosi di Erse, la quale, come Orizia, reggeva un paniere sacro durante la processione che saliva all'Acropoli, le usò violenza senza incorrere con ciò nell'ira di Atena. Le tesmoforie pare fossero feste orgiastiche, durante le quali le sacerdotesse si prostituivano pubblicamente allo scopo di rendere fertili i campi di grano. I panieri recati in processione contenevano simboli fallici. Al culto erotico della dea cavalla era associata la primitiva credenza che i bambini fossero reincarnazioni dei loro antenati defunti, che entravano nel grembo delle donne come improvvisi mulinelli di vento. E la parola di Omero ebbe autorità sufficiente per far credere ai romani colti, Plinio compreso, che le cavalle spagnole diventassero pregne volgendo i quarti posteriori al vento. Varrone e Columella citano il medesimo fenomeno e Lattanzio, alla fine del III secolo d.C., paragona il fenomeno con la fecondazione della Vergine a opera del Sanctus Spiritus. Borea soffia in inverno dalle pendici dell'Emo e dallo Strimone e, quando la primavera esplode con i suoi fiori, pare che egli abbia fecondato l'intera terra d'Attica. Ma poiché non soffia mai in senso inverso, il mito del ratto di Orizia evidentemente documenta anche il diffondersi del culto del vento del nord da Atene in Tracia. Dalla Tracia, o direttamente da Atene, questo culto raggiunse la Troade, dove il proprietario delle 3.000 cavalle era Eritonio, un sinonimo di Ereteo. Le 12 puledre venivano probabilmente aggiogate a 3 quadrighe, una per ciascuna delle 3 stagioni dell'anno, primavera, estate e autunno. Sul monte Emo aveva il suo rifugio il mostro Tifone. Socrate, che in materia di miti non era un esperto, sbaglia nell'interpretare il ratto di Orizia. Egli suppone che una principessa di questo nome, mentre danzava e giocava sulle rocce nei pressi dell'Ilisso, oppure sulla collina di Are, cadesse incidentalmente dall'alto e rimanesse uccisa. Il culto di Borea tornò poi in auge presso gli ateniesi, che commemoravano la distruzione della flotta persiana a opera di quel vento. Borea aiutò anche i megalopolitani contro gli spartani e si meritò sacrifici annuali.